Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Un grazie anche oggi a Edo per avervi accompagnato fino a qua. È mio il compito invece di accompagnarvi fino alle ore 20, ora in cui comincerà Marco Garavelli con Hard and Heavy. E Giulio Caperdoni, che è in vostra compagnia tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, altrimenti disponibile in podcasting, dove altrimenti è da intendersi nel momento che voi preferite, con il supporto che voi preferite. Tutti i dettagli su www.radiorockfm.com oppure su myspace.com/eclettica. Vi ricordo anche della lista nera per iscriversi giulio@radiorockfm.com e se lo fate ricevete settimana per settimana la playlist della trasmissione. Nell'accingermi a descrivere i recenti e tanto strani avvenimenti svoltisi nella nostra città, in cui finora non è mai accaduto nulla di speciale, sono costretto, per la mia inesperienza, a cominciare un po' da lontano, e precisamente da certi particolari biografici sul molto rispettabile e dotato di talento Stepan Trofimovic Verchovensky. Questi particolari serviranno soltanto da introduzione alla presente cronaca. La storia poi, che intendo narrare, seguirà più avanti. Diciamolo subito, tra di noi Stepan Trofimovic recitava sempre una parte speciale, civile, per così dire, e amava questa parte appassionatamente, tanto che senza di essa credo non potesse neanche vivere. Non che io lo voglia paragonare ad un attore di teatro, Dio me ne guardi, tanto più che anch'io lo stimo. Questo era l'incipit dei Demoni, di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. This time. there are two of me here, and there are two of you here. The other me is a doctor, Emma Brown, from 1955. The younger me that helps the other you get back to 1985. Remember the lightning bolt at the clock tower? Yeah. That event doesn't happen until tonight, so you must be very careful not to run into your other self. Stereo. Stereo. Stereo. Stereo. Where are you? Stereo. Stereo. Stereo. Over here. Stereo. Stereo. Stereo. Stereo. There you are. Stereo. After all these years, the only thing that keeps us apart are these speakers. And the closer we get, closer we get, we harmonize. We harmonize. Harmonize. Harmonize. Speaker. Papa Mono. Yeah. I'm over here. You're so far away from me. I'm lonely. I want your signal. And I love you. Yeah. Auckland, dalla Nuova Zelanda. Da lì provengono The Brunettes, che ci siamo appena ascoltati con il loro primo album che esce, oltre che per la Lil Chief, etichetta locale, per cui incidono da ben più di 10 anni fa anche per la Sub Pop, album intitolato Structure and Cosmetics, del quale si è appena chiusa Stereo Mono Mono, canzone che descrive in questo titolo anche un uso del lato sinistro e del lato destro molto, molto particolare, se non altro per essere utilizzato in una canzone e non in un test di un impianto audio. Si prosegue con un gruppo canadese, grazie al quale si riesce a capire come l'onda dei gruppi che cantano in francese sia un'onda montante, sono veramente sempre di più e ovviamente provengono quasi tutti dal Quebec, da Montréal per la precisione. Loro incidono per la Constellation Records, si chiamano Faux Thérèse e in questo caso sono fortunato, il brano ha un titolo facile anche per me che il francese non conosco, si intitola Nada. Era una notte meravigliosa, una notte come forse ce ne possono essere soltanto quando siamo giovani, amabile lettore. Il cielo era così pieno di stelle, così luminoso che, gettandovi uno sguardo, senza volerlo si era costretti a domandare a se stessi: è mai possibile che sotto un cielo simile possa vivere ogni sorta di gente, collerica e capricciosa? Anche questa è una domanda da giovani, amabile lettore, molto da giovani. Ma voglia il Signore mandarvela il più sovente possibile nell'anima. Parlando d'ogni sorta di signori capricciosi e collerici, non ho potuto fare a meno di rammentare anche la mia saggia condotta in tutta quella giornata. Questo era l'incipit delle Notti Bianche di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. I've been hiding behind a mustache, yeah. dark corner of a basketball court. Just a slight jingle of pocket change pulsing. In the tourist bar, I lost 50 euros to a guy with the walnut shells and the marble. It really pissed me off, so ooh, I thought I'd go back to get my money, but all my homies wore me. Oh no, those gypsies probably got knives. This goes out to all my underbrew, double dupe, two-time true fools. And all us earth scrolls, some planted and some pulled. I got them shaky gums and a couple of loose tubes. Now tell me, what should I do? My God, the clock's always stuck telling 11, 11, a 3:30. This goes out to all my underdone, other tongued, long, long front men. Just your in all us earth grows, some planted, some pulled. This goes out to all my underdone, other tongued, long, long front men. In all us earth grows, doing the crow hoop like it ain't no joke. Grandma? When are you coming back? My feet are in the watch and around my house tomorrow. Shut up, you old bag. Flashing swims inside alive. Time is multiplying. Fantasizing about everyone she knows. Loving everyone she knows. Spent nearly a dozen nights haunting empty streets of fancy gardens and feeling them with songs. Keeps on feeling them with songs. Found a drinker filled with wine. Huge cool mix on the wild. While I strummed my way the door, man, you looked awful bizarre. Lying naked on your side. Rose and chestnuts on the ground. Loved you till I nearly drowned. Woke up in another dawn. She pulled out 56 treasures, and the sounds would echo forever. In a cool mouth, she would move pleasure. On a lonesome, she is a survivor. With a random from afar, keeps a pen knife in her pocket, smiles at strangers, afraid of cars. She drinks salt water and cocaine. Told me it put hairs on her brain. Loved by all drunkards and the insane. They call her name out. Oh, you're in a dungeon. Così, giusto per in parte contraddire quanto detto pochi minuti fa, un gruppo proveniente dalla città di Montreal che però canta in inglese, gli Hot Springs, appena ascoltati con 38 Adventure, brano che passa spessissimo in Eclettica in questo periodo. Prima ancora il nuovo The Hollows da parte dei Y, meno hip hop e più indie rock, dall'album omonimo. Per chiudere questa prima parte di Eclettica, poi andremo avanti fino alle ore 20 con un nuovo artista statunitense che incide per la Fat Cat Records. Lui si chiama Tom Brosseau, proviene da Grand Forks, dall'album Cavalier. Ci ascoltiamo Emory. I heard you say something to the effect, good poetry you'd never bring. Perhaps you was being funny to say such a thing. What about the night in June, coming back from New York? The road, the shadows, the moon. I say if you got a bird, then you gotta let it sing. Emory, Eleanor, in the haystack where the rain was soaking through. The devil in the alley where the buildings were white and the darkness was blue. Mr. Ferenby driving in the car, heading into town. Either you stumbled upon things or things just came to you. Emory. Friends left Princeton for the beach without a penny to your name. The Atlantic City hotel room where you took all the blame. Monsignor Darcy wrote you to find your cousin Claire Page, away to Clarence you wrote. You took after your ma, I'd say she'd have done the same. Emory, how you believed, but you struggled in the Lord above. You survived a war, but you lost in love. May your hair always be auburn, may your eyes always be green, may you rise each time you fall. We're only dealt the hand, it don't come with a glove.